Un malanno viene dietro all'altro, dice il proverbio. Le suore del conservatorio erano divise in tre partiti. Uno era quello della badessa, composto di oblate superlativamente bigotte e fanatiche per i preti. Un altro di giovani, non nemiche del progresso e della civiltà. E il terzo delle educande che non facevano lega col primo né simpatizzavano col secondo partito. La scambievole animosità dei partiti giungeva fra le monache a segno tale che quando si incontravano nel giardino o per i corridoi o si voltavano le spalle o tornavano indietro. Era meno tronfio d'orgoglio quel sovrano di Francia che al secolo suo diede il proprio nome quando diceva "Lo Stato sono io", di quello che non fosse la condottiera del partito fanatico, cioè la badessa, nel sentimento del proprio dominio. Sveglia d'ingegno, ma petulante e intrattabile, avara quanto una vecchia zitellona, soprattutto caparbia e ignorante, ella era sanfedista nata. Eccellente pasta per un pontefice se fosse nata uomo. Tale era il quadro che le faceva una delle suore dell'opposizione, la quale, propensa allo scherno, vedendola entrare, diceva: "Ecco l'antipapa". Preceduta nell'animo di questa donna dalle informazioni date sul mio conto dalla consorteria di San Gregorio, potevo io dimorare nel conservatorio senza divenire l'oggetto del più vile spionaggio. La badessa, accortasi per tempo della mia simpatia per le suore e della parte liberale, mi ritirò di repente la sua grazia e perfino la cortesia del saluto. Più d'una sera, essendomi da lei portata per darle, secondo l'usanza, la buonanotte, non mi degnò di ricevermi ed io, per conseguenza, non mi diedi più pensiero di andarvi. Anche le monache tutte del suo partito non mi salutarono più. Benché estranea a quella comunità, pure mi conformava alle loro pratiche. E prendeva vivo interesse alle cose loro. Questa mia benevolenza e spontaneità fu male interpretata dalla superiora, la quale, dimentica che io ero claustrale ed ella semplice oblata, pretese di comandarmi a bacchetta, non altrimenti che se io fossi stato un'impubere educanda. Vidella un giorno sul mio tavolino un paio di volumi delle storie del Cantù. Li prese in mano, ne volse alcuni fogli intonsi ancora, poi, riponendoli, "Scommetto", disse, "che questi sono libri di politica e per conseguenza scomunicati. E qui, signora mia, colgo l'opportunità per dichiararvi che scritti messi all'indice nel mio conservatorio non c'entrano." Un'altra volta un servitore della mia famiglia chiese di me per consegnarmi certi borzacchini da parte della sorella. Uscii del coro per disbrigarlo, la badessa mi venne dietro e vedutami parlare con lui. "In coro si fa la meditazione, state là", mi disse con imperiale sussiego e puntando l'indice verso il suolo. La fissai per esaminare se quelle parole erano dirette a me. Ella, immobile, continuava a tenere gli occhi pertinacemente fissi sul mio viso. Allora le dissi: "Sappiate, signora, che impertinenze alla caracciolo non se ne fanno. Io non sono né educanda né monaca di questo conservatorio. Se vengo a coro, ci vengo per spontanea volontà. Ora che voi lo esigete, non mi ci vedrete mai più." Pochi giorni dopo mi si presentò l'occasione di prestare un gran servizio a quella comunità ed io, posto da parte il risentimento per le scortesie della badessa, mi ci prestai con la più viva sollecitudine. Ecco come. Da molti anni le suore francesi dell'ordine di San Vincenzo de Paoli avevano tenuta parte di quel conservatorio per uso di scuola pubblica. Non paghe della parte occupata, pretendevano l'intero locale e già stavano per riuscirvi. Le altre suore nostrane, costernate a tale pericolo e povere di protezione, pensarono di ricorrere alla clemenza del principe. Beh, con l'influenza del Saluzzi feci ottenere loro sollecita udienza alla badessa e ad uno dei governatori del conservatorio. Né mi ristetti questa sola pratica, perché, fatta stendere una supplica dal generale, conseguii prestamente un decreto reale favorevole alle mie ospiti. Ma quella gente è come il gatto, risponde alle carezze coi graffi e poco dopo io lo provai. Chiusa in convento fin dall'età di 18 anni, avevo troncato a mezzo i miei studi. Proibiti essendo nel chiostro i maestri e i libri, non avevo potuto coltivare le lettere che da me sola e di soppiatto. Ora la mia condizione era cambiata ed io, avendo come tutti noi napoletani, passione per la musica, mi comprai un pianoforte per cantare ed accompagnarmi. Se una bomba fosse caduta nel conservatorio, non ci avrebbe portato più terrore che quell'innocente divertimento. Le bigotte si armarono di scrupoli, onde io, per evitare ulteriori mormorazioni e maldicenze, mi ristrinsi a suonare soltanto, senza cantare. Ma non bastò. Cercavano un pretesto per farmi prendere a sdegno il loro conservatorio, era cosa chiara. Studiavo l'introduzione e la tirolese del Guglielmo Tell. Maria Giuseppa venne a dirmi che la badessa dava infurie contro di me. «E perché?» domandai. «Perché non può permettere che le monache siano scandalizzate più a lungo dal pianoforte, essendo stata sempre vietata la musica nel conservatorio?» Mi portai senza indugio nella stanza della superiora, che mi ricevette senza neppure invitarmi a sedere. Quando il califfo riceve in sua presenza qualche suddito, non si compone a maggior sostenutezza e gravità. «Dalla mia conversa, le dissi, ho ricevuto un'ambasciata vostra.» «Sì», rispose guardandomi attraverso, «sono scontentissima di voi per gli scandali delle vostre suonate.» «Non capisco davvero come suonando si possa scandalizzare. Ieri risuonaste una tarantella.» E qui, senza volerlo, feci una risata. «In primo luogo», risposi, «non ho suonato quello che credete, ma bensì un pezzo di Rossini. Voi, non intendendovi di musica, avete preso un equivoco. Ma posto ancora che invece di musica seria avessi suonato una tarantella o un'arietta amorosa, che forse motivi simili non si eseguiscono sull'organo di ogni chiesa nel tempo della messa e della benedizione?» «Oh, queste sciocchezze a me non si danno ad intendere!» E battendo i piedi e gesticolando soggiunse: «Il cardinale mi aveva detto che non vi sareste trattenuta qui più di un semestre. Ora è già scorso un anno e non si parla più della vostra partenza.» Qui colsi l'occasione di castigare quell'orgoglio imbecille. Noi eravamo sole sole, io forzai il mio volto all'affabilità, inzuccherai la voce ed avvicinatami a lei misteriosamente. «Buona madre», le dissi, «se qualcuno vi udisse parlare tanto duramente di me, crederebbe per certo che foste impaziente di liberarvi della mia presenza. Eppure chi mai di questa famiglia non conosce l'affetto sincero che mi portate, le cure materne che mi usate? Meglio di ogni altro lo so io, che vi pago della medesima moneta, io che vi corrispondo con eguale benevolenza.» «Di quando in qua?» domandò ella, aprendo le labbra ad un sorriso sardonico. «Ve ne ho data prova poche settimane sono, ve ne darò un'altra e più sicura adesso, che si tratta non più della salvezza di questa casa, ma del vostro proprio onore, del vostro grado e forse della vostra libertà.» «Gesù, Gesù, Gesù!» esclamò atterrita. «Si tratta di grado, di libertà? Che ne sapete, figlia mia? Spero che non abbiate l'ardire di burlarvi di me.» «Vi sovrasta una tremenda e temo irreparabile sciagura.» «Parlate, per carità!» «Un pericolo orrendo, spaventevole.» «Oh, mi si ghiaccia il sangue nelle vene!» «Poveretta, la perdita del badessato sarebbe un nulla dinanzi agli altri mali che vi aspettano. Chissà che non siate trascinata dai birri in carcere, che vi pongano a sedere sul banco dei rei. Oh, Gesù, Gesù, Gesù!» «Che non veniate condannata alla galera o almeno alla reclusione perpetua con un'enorme catena al piede.» «Gesù, Gesù, Gesù!» «Messa forse a pane e acqua, forzata a spazzare il locale, a spolverare il palco con la granata, a mondare, l'avrei tormentata più a lungo, se non l'avessi veduta vicina a svenire.» Tremava l'infelice da capo a piedi, il respiro le andava mancando, aveva fatto un viso di cadavere. Quando l'ebbi vista un pocolino riavuta, proseguì: «Non ignorate, buona madre, l'immenso bene che vi vogliono le monache francesi.» «Si tengano per sé quel bene», rispose la maligna vecchia con voce fiacca, sprofondata dall'apice dell'orgoglio al limo dello scoraggiamento. «Dice proprio bene l'antica tradizione: da spagnuoli ed imperiali, dai francesi e cardinali, libera nos domine. Ma vengo al proposito. Dicono che nell'abboccamento avuto con Sua Maestà abbiate tentato di denigrare la reputazione delle vostre rivali di San Vincenzo. Il re ne prese argomento per farsi pubblicamente beffe di loro e di voi stessa, se non che le francesi, avuto sentore della calunnia, sono pronte e risolute a rendervi colpo per colpo. Già il piano d'attacco è concertato. L'accusa è stesa. Il ministro francese, tutti i sudditi della Repubblica in movimento, l'agente della polizia in piedi, la capitale in subbuglio e frattanto voi vi occupate di queste inezie? La superiora puntò le mani sul tavolino per balzare in piedi, ma la forza essendole mancata ricadde di tutto peso sulla poltrona. «Posso almeno sapere di qual delitto mi accusano quelle scellerate?» domandò più morta che viva dallo spavento e con parole semispente fra i denti. «Di cospirazione, di liberalismo, di lesa maestà, congiura nel vostro conservatorio, monache liberali, voi il loro Masaniello, testimonianze prese dall'ispettore, lettere intercettate, documenti parlanti, prove e indizi irrefragabili, poveretta, in qual cattivo passo vi trovate. Miserere mei Deus, io Masaniello, io rea di alto tradimento, quale esecranda macchinazione!» gridò esterrefatta la sfegatata borbonica. «C'è l'ambasciatore di mezzo e la vincerà. Mi credete dunque irreparabilmente perduta?» «Ahimè, lo temo. E le suore del conservatorio? Vostre nemiche la maggior parte. E voi, cara e buona, e voi, fedele e generosa Enrichetta?» A questo punto corsi verso la finestra e dalla finestra alla porta. L'aprii per metà, vi tesi l'orecchio, poi d'un salto ritornata presso la badessa. I birri, gridai da spiritata. Entrano in questo momento i birri nella porteria. La polizia, reverenda, entra con le baionette in canna nel conservatorio, gridò Maria Giuseppa che tutto aveva sentito, spalancando la porta e precipitandosi nella stanza. La vecchia, rinvigorita dal terrore dell'imminente catastrofe, fece l'estremo di sua possa per rizzarsi in piedi e vi riuscì, mosse un passo innanzi e buttatasi ai miei piedi e stringendomi le ginocchia con braccia convulse. «A te, fidata amica, a te sola mi raccomando, salvami almeno tu!» esclamò in tono supplichevole, interrotto da singhiozzi. «Non sei tu stessa che salvasti questo conservatorio dall'invasione delle prepotenti francesi? Deh, prestami una volta ancora il tuo magnanimo soccorso. In te sola ripongo la speranza della mia salvezza, angelo di bontà!» I miei sforzi per sollevarla da quell'umile positura tornarono vani. Ella continuò a stringermi le gambe sempre più forte. «Mi rincresce, reverenda», le dissi allora, «di non potervi soccorrere questa volta, essendo stata poc'anzi da voi congedata e dovendo andarmene, sono costretta ad abbandonarvi all'orrendo destino che v'aspetta». «No, non partire, non m'abbandonare, ti supplico, restaci e suona e canta pure quanto vuoi». «Oh, no, no, io debbo partire». «Non ti lascerò, no, resta per carità». Allora io finii la commedia con una potentissima risata. Presala per le braccia, la rialzai da terra. «Da ora in poi», le dissi ripigliando il tono serio e rimettendola a sedere sulla poltrona, «da ora in poi non alzerete troppo superba la fronte se non volete abbassarla poco dopo nella polvere. Questo spavento vi serva di lezione. Quanto a me sarò di parola, sono determinata di lasciare il conservatorio, ma lo lascerò quando piacerà a me e non quando piacerà a voi». A ristorare le smarrite forze chiese la superiora un bicchiere d'acqua e glielo porsi, indi con occhio pieno di carezzevole sottomissione, sogguardatami e stretta tenendomi la mano, «sono sicura», disse, «che questa commedia non andrà per i giornali. A questo patto resteremo amiche. Un altro bicchier d'acqua, vi prego». Da allora in poi me la passai, non felice, ma libera da molestie, né più ebbi a lagnarmi delle fantasticaggini della superiora, in quanto ai birri la sorte li riservava non a lei, ma a me. A me, purtroppo, perché le cose d'Italia precipitavano a ruina fatale. Carlo Alberto, sconfitto presso Novara dall'austriaco, era costretto ad abdicare e abbandonare l'Italia. La corte pontificia, da tale disfatta incoraggiata, invocava da Gaeta per essere ristaurata in Roma le armi degli stati cattolici e già si accingevano in suo soccorso l'Austria, la Spagna e la Repubblica Francese. In Toscana veniva ristabilito il dominio granducale per una sollevazione popolare in favore dell'antico regime, mentre Venezia, abbandonata a sé sola, e Roma strettamente assediata, lottavano, questa contro i francesi, quella contro gli austriaci, con sforzi eroici di prodezza. Benché profondamente afflitta dalle infelici condizioni dell'Italia, non perdete di vista la speranza di finirla con l'ordine benedettino. Da me pregata, mia madre si portò a Gaeta all'incontro di Pio IX con una supplica nella quale io chiedevo al pontefice l'atto di secolarizzazione, con l'impegno di rimanere vincolata ai voti, non altrimenti che come semplice canonichessa. E perché le monache di San Gregorio avevano mosso lite per indennizzazione a quel mio parente che simulato aveva nel tempo della professione d'essermi debitore di ducati mille, io imploravo inoltre dal pontefice d'essere dichiarata immune da tale ingiusta esigenza. Pio IX parve commosso alle istanze di mia madre, alle preci delle mie sorelline, si volse attorno per vedere se nella stanza vi fosse l'occorrente per scrivere e non avendolo trovato disse alla mia famiglia di ritornare dopo 2 giorni. Intanto il mio acerrimo persecutore, l'arcivescovo e cardinale Riario, informatosi di queste pratiche, partiva premurosamente da Napoli alla volta di Gaeta e vi giungeva l'indomani dell'arrivo di mia madre, l'autore di quella lettera famosa da me indirizzata al Papa sotto la salvaguardia della confessione e da lui intercettata e aperta. Mia madre, tornando dal pontefice, lo trovò cambiato. «Signora», le disse con gravità, «fate che vostra figlia si contenti di quello che ha ottenuto finora. Chi troppo vuole, niente ha. Ella vorrebbe mutare abito e condizione. Non possiamo consentirvi. Che direbbero? Che farebbero le altre monache vincolate nella medesima sua condizione? Avevamo dimenticato il suo nome l'altro ieri. Ce l'ha rammentato il cardinale Riario ed oggi stesso abbiamo letta una carta che ella ci indirizzava 2 anni fa. Era evidente che, come quelle della povera Italia, le mie sorti andavano in rovina. 1 mese dopo mi veniva da Riario partecipato un breve pontificio, per cui Pio IX mi concedeva la grazia di starmene stabilmente in conservatorio, sotto condizioni di clausura, potendo però uscire nell'estate per i bagni di mare, purché i medici li avessero ordinati, e di più che fosse piaciuto all'arcivescovo di permetterli. Quanto poi alla lite mossa dalle monache, ordinava che io dovessi versare alla cassa di San Gregorio ducati 1000 e che da quel monastero percepissi vita durante un assegnamento mensile proporzionato alla somma da me versata. Insino allora avevo ricevuto per il mio mantenimento ducati 14,5. Da quel momento non mi vidi più consegnare che una polizzetta mensile di ducati 6 a titolo di alimento mio e della mia conversa, carità e munificenza fratesca alla necessità. Non resistono neanche gli dèi. Giuoco forza mi fu restringere il vitto ad una sola pietanza e a suafare il palato al pane nero. Ciò dovei fare, mentre di porpora decorato, l'autore della mia indigenza dava pranzi sontuosi ai parassiti papassi suoi colleghi, che da Roma, trafugati, rifluivano presso i Borboni, a fine di seco loro consultarsi intorno a mezzi di ribadire più sicuramente i ferri al popolo d'Italia. Venne Pio IX in Napoli, tramutato di luogo come di colore e di sentimenti. Sebbene uscissi spesso, reputai superfluo, anzi pericoloso, il disegno di ricorrere nuovamente alla sua misericordia. Egli, che chiudeva l'orecchio ai gemiti della sua patria, per quale supremo privilegio l'avrebbe aperto alle lamentazioni di una povera monaca? E fiancheggiato qual era da un Ferdinando II, da un Riario, come poteva, poniamo pure che avesse voluto dare ascolto ai miei lamenti. Il solo fanatismo della infima plebe napoletana sorreggeva ancora nel vacillante seggio quei 2 volgari nemici di ogni bene. E il re di Roma, debole di cuore, più debole di mente, assetato di popolarità, incapace di acquistarla durevolmente, metteva la barca sdrucita della povera chiesa al rimorchio della loro galera. Una sera, mentre sull'imbrunire io mi ritirava, la polizia vietò alla carrozza ove io era di traversare la piazza delle Pigne. Ritrovandosi il Santo Padre nel Museo delle Antichità Pagane, ove il principe reale gli faceva da cicerone, non si sarebbe potuto aprire un varco nella folla senza farsi calpestare dai cavalli la gente. Mi convenne, voltando strada, fare un lunghissimo giro, scendere per la Vicaria e risalire per San Pietro a Maiella. Questo involontario ritardo eccitò la rabbia dell'idrofoba portinaia del conservatorio, la quale, con quegli occhi biechi e sanguigni che mi facevano rizzare i capelli in capo dalla paura, mi disse: «Se un altro anno avremo la disgrazia di tenervi con noi, a fe di Dio che non metterete più il piede fuori di questa porta». E così dicendo, alzava minaccioso l'indice in aria a guisa di maestro di cappella. Prima di partire da Napoli, volle il Papa visitare uno ad uno tutti i monasteri di clausura. Quando toccò al monastero di San Giovanni, le suore di Costantinopoli manifestarono a quelle religiose il desiderio di vedere la persona del pontefice in un luogo che per la vicinanza dei due monasteri a ciò si prestava. Salito adunque il Papa sopra una certa terrazza, benedisse complessivamente tutto il gregge a lui d'intorno. Non so chi m'accennasse all'attenzione sua. Fissò egli lo sguardo sopra di me e disse: «Una benedizione particolare alla monaca claustrale», e alzata la destra mise la parola in effetto. Quell'atto non mi recò alcun conforto. Io mi augurava salute, tranquillità, emancipazione dall'ignobile servaggio. Ora, quali di questi beni mi recava quella benedizione? Da lì a pochi giorni Pio IX ritornava in Roma, lieto quanto quel suo predecessore che alla caduta di Rienzo ritornava vescovo e signore dell'eterna città. Il cardinale colse il momento per infierire contro di me. Mi giunse all'orecchio allora che tutti i rigori della clausura stavano per essermi scaricati addosso, per lo che mi veniva proposto di restituirmi presto al primiero carcere, di rinunziare una volta per sempre a qualsiasi speranza d'affrancamento, di rassegnarmi alla sorte delle altre monache, senza più ruminare ulteriori tentativi. E in compenso di tale atto di abdicazione mi si lasciava travedere l'onore di un badessato che per un breve, di speciale condonamento, nonostante l'età giovanile, avrei ottenuto. Quanto più attraente di tale prospetto era il pane nero che dividevo con la mia buona e fidata Maria Giuseppa. Feci rispondere al porporato che io preferivo soggiornare libera in una capanna anziché badessa in un carcere. Come rispose Sua Eminenza? Mi tolse anche quel magrissimo assegnamento mensile di 6 ducati. Me ne rimasi dunque, come i toscani dicono, nelle secche di Barberia. I lavori donneschi, io ne sapeva un po', e l'onnipotente, che tempera i venti per l'agnello tosato, non m'aveva privata di operosità e di industria. Per non viver d'accatto nel conservatorio, per non essere a carico altrui, avrei dunque preferito di guadagnarmi la vita con le proprie mani. Ma come si fa a industriarsi dimorando in casa di nemici e brancolando nel buio che copre l'avvenire? Ad un mio parente, che rinfacciava al cardinale quell'accanimento codardo contro una donna, duro come un macigno, costui rispondeva: «La madre è ricca, ci penserà lei». Distesa in quel letto di procuste, stretta, per meglio dire, fra l'uscio e il muro, destituita al fine dei mezzi di sussistenza, feci ricorso all'energia dell'animo per cercare scampo in una disperata uscita, a mali estremi, rimedi estremi. Una sera, invece di ritirarmi, secondo il solito, al conservatorio, avvertì per lettera la badessa di voler chiudere la porteria tra vespro e nona, perché, non volendo mangiare il pane altrui, sarei rimasta in casa mia. 20. L'Annunziata di Capua. Alla lettura di quel mio foglio, che le suore di Costantinopoli gli trasmisero tal quale, il cardinale restò pietrificato. Né poté capacitarsi che vera e reale fosse la mia fuga. Il primo accesso della sua collera si scatenò sul mio confessore, che fu acerbamente rimproverato di non aver saputo antivenire un così grave fatto. Impaurito dagli istinti vendicativi del cardinale, il canonico scrisse con mano tremante un biglietto nel quale mi supplicava di tornar subito al conservatorio. Gli risposi brevemente che non si fosse data altra pena per me, che del resto poteva dire al suo superiore di non voler più oltre dirigere la coscienza di una monaca ribelle. Questo secondo suggerimento non era un semplice appiglio. Nell'ira mia contro l'abietto clericume d'Italia, io non sentiva il minimo bisogno di confessarmi. Scorse più di una settimana e già tutto pareva assopito. La mattina io uscivo di casa con mia madre in carrozza, la sera, perché ci si radunava per solito un piccolo crocchio, io non mi muovevo dalla mia camera, ove entrava soltanto qualche dama di mia conoscenza. Scorsi quei giorni, arrivò una lettera del vicario, per la quale io era avvertita che un canonico espressamente incaricato dal cardinale sarebbe venuto il giorno dopo a parlare con me. Venne infatti e cominciò a esortarmi in nome di santi d'ambo i sessi a profondermi lusinghe e promesse, a sfiondar minacce, a consigliarmi, insomma, di ritornare prontamente in gabbia. Gli risposi chiaro e tondo no. Soggiunse che se motivo della mia fuga era la sospensione dell'assegnamento, quel mensile mi sarebbe stato infallibilmente restituito, non sittosto fossi tornata alla regola, separandomi dai parenti e rinchiudendomi nel cenobio. Sua Eminenza voleva darmi per favore quello che mi spettava per giustizia. Si sfiatò, insomma, un'ora quel canonico a persuadermi che l'anima mia si trovava in pericolo di dannazione e che disubbidire al cardinale era lo stesso che consegnarmi direttamente al diavolo. Risposi la mia coscienza esser più pura, più tranquilla di quella del suo cardinale. Costui piuttosto dover temere le fiamme eterne per avere operato da despota, come mai, ben sapendo la mia ripugnanza per la reclusione, doveva egli fare della mia libertà un affare di Stato. Il mandatario, accortosi che invece di dar busse ne buscava, chiese scusa dell'incomodo e partì. Dopo questo tentativo rimasi altre 2 settimane in pace. Alloggiava allora mia madre nel palazzo Ripa a Pontenuovo, ove stretta aveva amicizia con la principessa, padrona del palazzo, e col generale Torchiarola, altro inquilino dell'abitazione, persona di qualche merito. La principessa, venuta una sera a visitarmi, disse aver risaputo dal generale che Riario, in seguito ad un colloquio segreto avuto col re, aveva dato a Pecchenedda, direttore di polizia, l'ordine di procedere al mio arresto. Qual sentimento spingeva quei signori ad avvertirmi? Forse l'amicizia? Forse il comune liberalismo? Oibò, troppo bigotti e troppo divoti erano essi alla dinastia borbonica per avere alcunché di comune con una monaca ribelle all'autorità. Ricordo anzi che una signora della loro famiglia, donna di ruvido bacchettonismo, aveva tenuta una segreta conferenza con dottori e casuisti intorno a un caso di coscienza importantissimo, se cioè, abitando nella stessa casa con me, incorreva nella scomunica, al che la conferenza decise che poteva pure dimorare sotto il tetto medesimo purché schivasse di salutarmi. La sollecitudine dunque di quell'avvertimento proveniva dal timore di vedere eseguito un arresto nel loro palazzo e non da altro. Rimaste sole, ci mettemmo a deliberare su ciò che dovesse farsi e fu preso il partito di antivenire l'arresto con l'evasione, ma dove ricoverarsi? Altro asilo sicuro, tranne un qualche vescovato, non mi poteva preservare dagli artigli del potere. Dove poi rinvenire il vescovo generoso che volesse elargirmi ospitalità e protezione? Dopo lungo pensare e ripensare, ricordandomi che il cardinale di Capua, Cassano Serra, era uomo di rara bontà, deliberai di ricorrere a lui. Passammo una nottata agitatissima. Ogni momento io mi affacciavo alla finestra per vedere se comparivano i poliziotti e mi pareva sempre di sentir suonare il campanello dell'uscio e gente salir le scale. Era grave, soffocante l'aria notturna, che alla finestra mi percuoteva il viso. Soffiava un vento gagliardo che per le vie rotolava vorticosi nuvoli di polvere e minacciava ad ogni sbuffo di spegnere la lampada alla Madonna della Cantonata. Tetro, lugubre il cielo, addormentati tutti nel quartiere, deserti i vicoli, non altro suono d'intorno che il passo lento e indistinto di una lontana pattuglia. Mia madre riposava vestita sul canapè. Verso le 2, lì, seduta alla finestra, col capo appoggiato sulla persiana, mi addormentai e feci un sogno spaventevole. 3 manigoldi, mi pareva che afferratami, uno per un braccio, uno per la testa e il terzo per la gola, mi trascinassero rovescioni giù per le scale di marmo del palazzo, tirandomi per i capelli e menandomi grossi colpi col dosso della mano. Svegliatami, sentii dei forti e spessi brividi, un palpitare affrettato di cuore, un tremendo nodo alla gola, segni della crisi nervosa che poco dopo mi prese. Furono lunghe, furono violente quelle convulsioni. Non lo so, Nessuno di casa se ne avvide. Mi ritrovai giacente a terra con le membra peste, abbattuta, oppressa, fiaccata più ancora nello spirito che nelle membra. 100 tristi pensieri, 100 timori, a me ignoti fino a quel punto, presero a funestarmi lo spirito, a conturbarmi la coscienza. Avvistami l'evasione non essere che un riparo provvisorio, giacché la polizia m'avrebbe presto o tardi rintracciata. Pensai che il trafugarmi sarebbe stato un partito tanto vano quanto pure stolto e dannoso, e mi parve di essermi ostinata troppo in un sistema di folle resistenza. Dove andrò? Che farò? Domandai a me stessa. Girerò il mondo fuggiasca e all'avventura. Non bastano gli infausti voti che da madre e da sorelle mi separano, ma debbo pur di propria mano scavar più profondo ancora l'abisso del mio isolamento. Ah, fossi uomo! Ben altrimenti saprei lottare allora con l'inesorabile destino, ma donna, e donna agli occhi del mondo riprovevole per aver ripudiato con troppo prestezza l'umano consorzio. Io, povera, io malata e senza consiglio e priva di una mano pietosa che voglia trarmi dalla voragine, ove affondo e affogo. Quale? Quanta resistenza opporrò, Dio mio, alla combinata persecuzione di due poteri che con accanimento crescente mi incalzano. Il sonno di che la madre e le sorelline godevano, mentre io deste abbandonata la mia vertigine e lottavo fra contrari affetti, il cupo silenzio che mi avviluppava come per separarmi più presto dal commercio dei miei cari, non servirono che a rendermi maggiormente orrida e spaventosa l'immagine dell'esilio. Piuttosto che camminar di porta in porta e limosinare il pane amarissimo dell'esilio, non sarebbe meglio, ripresi a dirmi, cedere al destino, rassegnarmi alla dura necessità, placare con la simulazione l'ira dei superiori, con la compiacenza insinuarmi nella loro grazia, e non potendo rompere le catene, ottenere almeno che mi siano alleggerite al piede. Rapiti dal mio ravvedimento, assicurati della mia devozione, non solamente mi lasceranno in pace, ma mi colmeranno inoltre di favori, m'accorderanno gradi, potere, dignità. Alla fin fine un badessato non è pascolo tanto meschino per l'ambizione di una monaca. Mi rialzai, sollecita. Accesi il lume, trassi dallo scrittoio un foglio bianco e, intinta la penna nel calamaio, presi con dita tuttavia tremanti dalla convulsione a segnarvi le seguenti parole che non saranno mai cancellate dalla mia memoria. Eminenza, tutti nel mondo siamo soggetti a deviare dal retto sentiero. Il solo nostro Signor Gesù Cristo nacque impeccabile, sedotta pure io da rea tentazione. Qui la penna si fermò a un tratto, poi mi cadde dalla mano sulla carta. Per lungo tempo io rimasi col capo appoggiato sulla tavola. «Sciagurata!» esclamai al fine, balzando in piedi furibonde e mettendo in pezzi quel foglio. «Sciagurata! Non ti bastano i ferri che trascini al piede, ma porgi anche il collo al capestro! Hai tu dunque aspirato alla libertà solamente per disertare il suo vessillo in tempo di battaglia? E l'onore? E le generose aspirazioni? E la fede? E il cuore? Che ne hai fatto tu, vile, del cuore? E la coscienza? Ancorché tu possa rimanertene sorda ai gemiti della tua patria, credi poter soffocare la voce della coscienza? Perché non prendi consiglio e conforto dalla storia di questa tua patria, spinta da contrarie passioni, governata da fiacco volere, abbandonata alle seduzioni altrui, dalla propria famiglia? Adescata da ogni parte, cadde la misera Italia nel servaggio, come precisamente vi cadesti anche tu. Così pur essa languì per lungo tempo carcerata nel chiostro che principi spirituali e temporali le fabbricarono. Così pianse la patria, implorò, protestò. Conformi sono le tue vicende alle peripezie di lei, comune l'espiazione, comuni i voti al rinnovamento, comuni perfino gli sforzi recenti a recuperare l'esercizio della propria volontà, e ora tu retrocedi? E in qual momento? Alla vigilia della redenzione, mentre allo splendore della giovine Italia si dileguano le ombre della tirannide? Spuntato il giorno, partii con mia madre alla volta di Capua. Il cardinale Cassano mi accolse con rara gentilezza. Era uomo di facile accesso, scevro di pregiudizi e superiore alle basse vendette. Ei mi promise la sua protezione e nell'udire il racconto delle mie vicende affermò di voler operare quanto poteva per togliermi da quell'infelice stato. Il pomeriggio dello stesso dì venne a trovarmi il suo vicario. mandato da lui per mettersi d'accordo con me. Conobbi in quell'uomo un sacerdote rispettabile. Non contento di ricevere la mia confessione, che deposi ai suoi piedi bagnata di lacrime, egli volle inoltre che mi recassi l'indomani all'arcivescovado per narrargli tutta intera la mia vita. Assicurato che io non operava per fini men che nobili e puri, mi chiese i brevi pontifici ricevuti fino a quel giorno. Questi brevi erano stati, nella fretta della partenza, dimenticati, per lo che convenne che mia madre ritornasse subito in Napoli e, siccome l'affare richiedeva tempo, il buon vicario consigliò che intanto io fossi entrata in un ritiro della città, libera di uscirne in tutte le ore del giorno, purché vi pernottassi. Uno di quei ritiri portava il nome dell'Annunziata. Il vicario trovava ivi una stanza libera, mi pregò di non prendere in mala parte il nome del locale, poiché se quello era per consuetudine il deposito delle proiette, vi dimorava pure un picciol numero di religiose, che non appartenevano a quella classe di femmine. Parte della mobilia mi fu garbatamente favorita da lui stesso e parte ne presi a nolo dall'albergo. Io e Maria Giuseppa, che non mi abbandonava, entrammo dunque nel ritiro e mia madre, 2 giorni dopo, se ne partì. Molti riguardi mi furono usati dai superiori dello stabilimento. Veniva ogni giorno il cameriere del vicario per sapere se avessi ordini da dargli e il cardinale aveva commesso sia alle religiose che alle ragazze di usarmi il massimo rispetto. Ebbi per questa ragione da esse il titolo rancidissimo di eccellenza. Intanto scorsero parecchi giorni prima che Riario avesse scoperto il mio rifugio. Saputolo, al fine, si morse le dita e scrisse a Cassano una lettera piena di impertinenti rimproveri per avermi dato asilo. Questi rispose trattarsi di un'onorata religiosa non d'altri scontenta che di lui e non già, come dal suo foglio sarebbe sembrato, di una fuggitiva dal carcere, rea di qualche enorme misfatto. Del resto, essere l'arcivescovo di Napoli in dovere più di ringraziarlo per avermi accolta che di censurarlo. Riario sopì la collera per ridestarla in sé a miglior tempo.